E adesso voglio che sappiate quanto ci teniamo a fare questa merda. Voglio che studiate ogni singola canzone, che ascoltiate ogni rima ed ogni suono, fino in fondo, senza pregiudizi e senza critiche affrettate, prendendo solo il vero, ok? Voglio che la smettiate di essere ciò che non siete e prendiate una posizione consona alla vostra situazione, che la partoriate e la sosteniate il più a lungo possibile, senza perderla. Yo, voglio che sappiate che sono una testa di cazzo e in questo gioco non ho nessuna voglia di cedere facilmente, soprattutto senza aver provato. Ho uno stupido obiettivo, restare dritto. Yo, cammino a piedi nudi per rispetto della strada. Mi parla e mi corteggia perché in fondo lei mi ama. A volte non mi chiama ma lo vedo che mi acclama. Vorrebbe le togliessi dalla vista chi la infama. Ed io da bravo figlio di puttana metto a fuoco la mia brama. La sfodero e lo straccio poi lo passo sulla lama. Contro chi la sfrutta e non la sfama, chiudete il vostro culo in una tana o questa bocca ve lo sbrana. Rime fuori da una cerbottana, sparate da polmoni puliti perché non fumo marijuana. Nebbia banchi sulla zona urbana, mi coprono la strada ed io non vedo quando questa si dirama. Resto fermo con il muso esposto, con le mani in tasca ed il coltello ben nascosto. Sento un'altra aria, non conosco questo posto. Pressano e mi spingono per farmi deragliare ad ogni costo. Eh sì, fanculo, io non resto zitto. Vogliono che cambi direzione, mi spiace, vado dritto. Piovono macigni dal soffitto. Vogliono che abbassi la mia testa, mi spiace, guardo dritto. Vogliono vedermi sempre afflitto, pugnalano alla schiena, stronzi. Mi spiace, resto dritto. Provano a storpiare ciò che ho scritto sulle vostre brutte facce, tiro rigo dritto. E io vivo l'attitudine lacustre, viaggio su traghetti che mi portano su direzioni giuste. Tocco sponde in meno di mezz'ora, poste su punti diversi, ma tutte sulla stessa traiettoria. Volo col pensiero perché sono nato libero e maturo ogni concetto che mi satura lo spirito. Chi mi capisce può seguire il mio tragitto e chi invece non ci arriva guarda solo e resta zitto. Mantengo fede a una promessa e da quasi 10 anni la mantengo perché è sempre stata onesta. La forza che le manifesta te la rappo in rima mentre a tempo sopra ci muovi la testa. Direzioni che ti scegli, stati in cui ti svegli che non passano nemmeno se li spegni. A volte è sempre più contorta e se questo accade solamente colpa di sta linea fatta storta. Eh sì, fanculo, io non resto zitto. Vogliono che cambi direzione, mi spiace, vado dritto. Piovono macigni dal soffitto. Vogliono che abbassi la mia testa, mi spiace, guardo dritto. Vogliono vedermi sempre afflitto, pugnalano alla schiena, stronzi. Mi spiace, resto dritto. Provano a storpiare ciò che ho scritto sulle vostre brutte facce, tiro un rigo dritto. Eh sì, e sono proprio ciò che senti. Seguo una linea tratteggiata perché la mia vita è fatta a stenti. Proseguo su fili adiacenti, ogni nodo che mi trovo sul cammino lo frantumo con i denti. Non ho paura di sbagliare, continuo a accelerare, mal che vada posso solo capottare. Sono emozioni da esternare, stronzate tipo cosa provi quando senti Davide reppare. Cazzate dritte che non sposto, progetti solamente mossi appena che comportano un costo. Mille cagate dichiarate che quando sarò grande penserò, mi farò delle risate. Dritto così io lo faccio da qui, con un giudizio preciso, niente so e niente ni. Troppa la fiducia nel rispetto, da adesso chi mi prende per il culo io lo prendo di petto. Eh sì, fanculo, io non resto zitto. Vogliono che cambi direzione, mi spiace, vado dritto. Piovono macigni dal soffitto. Vogliono che abbassi la mia testa, mi spiace, guardo dritto. Vogliono vedermi sempre afflitto, pugnalano alla schiena, stronzi. Mi spiace, resto dritto. Provano a storpiare ciò che ho scritto sulle vostre brutte facce, tiro un rigo dritto.